ci ritavo a cazzone, almeno mi sono a spesa di finanza, l'importante per me è quello, poi non me la faccio tutto. Comunque, si può provare. Io ti ripeto, io l'emarginato non ce la metto, perché la radio non la conosco, quindi non so dove proprio agire, dove guardare, non lo so. Allora io non sono un tecnico, ma riguardo del bene. Se abbiamo fuori sono i tecnici, però grazie a Dio la maschera al naso sulla radio me l'ho sempre tolta. Non mi parlare di digitale, ma su quelle analogiche. La scheda guardo so dov'è, perché l'ho già vista, perché quella che ho l'abbiamo fatta tutta a pezzi e poi riassemblata, perciò un po' fatico, ma ci vediamo, se c'era non ti assicuro niente, però prima di dire da dare e da buttare, può succedere questo sistema qua, che una soldatura fredda nella pista, nel circuito stampato, tutti invece la pista vada a dissalvarsi proprio, anche una soldatura fredda di un componente, sai che sono a puntali, no? Può essere saltata ed è andata a finire proprio in mezzo alla pista del circuito stampato della scheda, automaticamente la tiene in gol e il frequentimento continua a camminare. Quindi perché non fare un tentativo? Si pulisce la scheda, si dà una passata di trenina, si pulisce bene, si soffia, si rimpiazza la scheda a memoria e vediamo se si riesce, perché una volta che si toglie la scheda, che si risolve la scheda, perché non è a spinetta, a pin come i Kenwood, quelle sono saldate, una volta che si risolve la scheda segnando tutti i numeri dei pin, la radio si resetta da sola, la memoria si resetta da sola, tranquillo quello lo so. Quindi può darsi anche che staccando la scheda memoria, ricevendo la scheda memoria, visto che la radio c'ha sia la ricezione che la trasmissione, si possa rimettere in sesto. Un tentativo, non è che succede niente, è proprio uno stacco e attacco di una cosa che si sa cosa bisogna toccare e basta. In linea di massima, andando a lavoro, la porto da Carlo, la faccio fare da Carlo questa operazione, ma io voglio cercare di recuperarla a parare, perché è un peccato. Scusa se mi sono intromesso, ma io la penso così. No, è così, anche a me mi piace un meme, ma proprio un meme. E mi dispiace perché adesso magari fai ascolto da altre parti, hai capito, quando non ce ne sono 27 puoi andare in Nizza di Piazzi, mi dispiace perché poi è anche un regalo, mi si è rotta, l'ho messa apposta, adesso è successo questo e mi dispiace un bel, ma se si può, ben venga, ok, appena ce l'ho di nuovo in mano, come la risale Sandro, te la passo e a tempo perso ci provi, no? Vabbè, quando te la ricorda comunque fa la cortesia, perché non voglio avere problemi né con te né con nessuno. La ritrovi, vedi se tutto a posto, se il difetto è lo stesso, capito? E poi me la salvo. Sono strofatte, quindi non vorrei che quella sia capitata proprio in questo contesto e che Massimiliano o a Vittorio o a Coso o a Fabrizio Bottizzo, e lo fai vedere a qualcuno di loro che magari riescono a capirci più di noi. Qualcuno di loro la misura, la fa, magari trova il difetto, è una cazzata, anche una saldatura fredda può essere che magari non fa arrivare bene il contatto al coso, al frequenzimetro. Ma ascolta, solo i numeri si spostano, però si sente se tu giri la frequenza, la centri. Oh, già, in poche parole, non i pulsanti delle memorie dove sposti le bande, attenzione, non dove sposti AM, FM, USB, non quello, sto dicendo c'è un altro pulsante tipo UpDAO che ti porta gli otto canali che mi avevo memorizzato, quelli lì non rispondono più ai comandi, poi ci sono gli altri otto pulsantini di su che servono per memorizzare i canali e uscire dalle memorie, quelli lì lo stesso non rispondono più, hai capito? Però se tu schiacci la portante e vai a fischiare sale parecchio pure. E in ricezione giustamente, quando sta tornando indietro senti proprio la ricezione che c'ha la radio, a volte quando è arrivato per esempio a 7000 qualcosa, per un secondo ho sentito qualcuno e poi giustamente frequenzive tornavano sempre indietro, ti sposta la frequenza, hai capito? Sì, ho capito, ma pensavo che magari la frequenza si centrasse, che fosse solo una questione di frequenzimetro, capito? Che magari se ne andava per i cavoli sui e quello che volevi sa con lo strumento, magari se si riesce a vedere se qualche pista di saldata, cosa, per lo meno c'aveva una pista che aveva uno spazietto e voleva riunita, diciamo, le tue parole povere. Prego. Ha preso il tiro, si è registrato. Non so che dire, là. Vabbè, la voglio far vedere, là. Comunque poi se non si riesce me la venderò per pizzi di ricambio a qualcuno che serve, vediamo un po'. La vedi tutta intera, qualcuno che ce l'ha uguale, mi fai una cifra e via, tanto di da mezzo te ne bisognasse. Io ce l'ho uguale, ma non mi serve quel difetto lì. La tua c'è almeno, non so che tu la fonda sulla pista della VLC, quindi la radio andava in protezione quando scaldava. Perciò non è che avesse niente di particolare. Poi dice che c'era un veleno, aggiungo un peso che ha fatto la poche tu le e aggiungo un parada praticamente da te con la radio, perché tu l'hai data a Gigi e poi Gigi l'ha data a me. Cos'è questo relè? Te l'ha detto Fabrizio. Sì, che magari. Non riesce manco a capire perché cosa serva. È fatto grezzamente pure, ma è detto che era con un filo che non voleva visto. Ecco entrare a Roberto, la ghia brecca. Sì. Io vi saluto, dai, Roberto. È quasi pronta a mangiare, dai. Ti faccio entrare io, Roberto, dai. Mi allontano e ci sentiamo dopo se coincide, dai. Ciao Claudio, Gianni e Roberto. Ecco, Massimiliano, ma... Beh, invece di tanti altri là. Claro, non sa mai cosa mi interessa, è la radio... Massimiliano, sei tutto onesto, ma non ne voglio mai cosa mi... Adesso te che mi vada bene la radio, poi ci metto a pietra sopra su tutto e buonanotte. Massimiliano. Massimiliano, mica ti vuole Roberto. Adesso sei lontanato, ciao Roberto. Io voglio capire chi appunto chi l'ha messo a storia. Se è stata comprata così o se è stato messo questo relè quando io l'ho presa da Gigi, non lo so, cioè voglio capire perché io non me ne sono mai accorto, anche perché il pulsantino dell'LC per segnare nella striscia rossa io non l'ho mai usato, non me l'ha fatto nulla, non lo uso neanche nel 440, figurati, quindi buonasera. No, volevo dire una cosa a Massimiliano, ho sentito il discorso della radio. Volevo che pensare, ossia che abbia toccato il tasto scan della scansione, magari non se ne è accorto. Mi ha fatto scansione 757. È un problema di scheda della memoria. Adesso me la porta e me la controllo a tempo per sì, ce l'ho uguale, ma sono tutta sistemata. Mi manca solo cambiare la scheda VCO che praticamente la sto cercando e non riesco a trovare. Per il resto ho cambiato già la scheda memoria, gli ho messo condensatori, transito, resistenza nuova, ho fatto tutto l'assemblaggio nuovo, neanche accendeva, tutta la parte del PRL, ma tutti i pezzi che ho recuperato così su internet a 10 euro, a 5 euro, poi alla fin fine ti costa, però insomma, la radio è buona e quindi la voglio mettere a posto. Non riesco a trovare la scheda VCO. Mentre lui invece c'è la scheda memoria che è andata in tilt, quindi prima di buttarla via, se è una saldatura ferma della scheda memoria, perché l'ho vista com'è fatta, che ha due piste incrociate, magari si è disaldato qualche puntino di stagno, è andato a mettersi nella pista del down e up, perché quello sarà il down e up, cosa succede? Che praticamente essendo in corto in mezzo, e quindi è meglio controllarla, attaccare la scheda, pulirla bene con la tredina, con la lente controllare se c'è qualche pista che non è segnata bene la rottangola, rifarla, ricattare tutto, la radio va bene. La mia invece non aveva proprio né ricezione né trasmissione perché era bruciata la parte del PLL, quindi l'ho messa nuova, va bene così. Va bene, a te ormai fai girare per Gianera. Comunque se me la vuoi portare a tempo perso piano piano già uno sguardo. Papà, ciao Gianni, anche a te, ben sentito, c'è qualche altro qua? Non credo. Ciao Roberta, ciao Roberta. Sì, se no cane, vedi da dove una, ne fatte, ne buonanotte. No, no, la mia non la tocco perché la mia è perfetta, la mia è a posto, no? Il WFO è perfetto, l'ho messa nuova la scheda delle memorie, perché vabbè qua è bruciata perché ha preso un colpo di, sembra che avesse preso un colpo di 380, non di 220, poi c'è un patticciato vento, quindi l'ho portata da questo mio amico rivoltore, mi ha rifatto tutte le piste, mi ha fatto sistemata eccetera, la scheda WFO memorie l'ho messa nuova, che l'avevo trovata su internet, capito? Quindi no, la mia no, non la faccio due in uno. Lui l'unica cosa che posso fare, siccome lui ha fatto la mia, smontare la scheda memorie, il WFO memorie, che praticamente è quello centrale, il WFO, e controllare se c'è qualche evoluzione alla pista. Se la pista è nuova, tutte le serrature sono a posto, allora le vado e chiudo, le vado e cosa vuole fare. Sono radio, che danno questi problemi, sono un po' vecchiotte, però sono belle radio. 757 è molto più bello del 140, è una bella estetica, molto bello, un bel dissipatore esterno, una bellissima radio, qui c'è un ricevitore stupendo, una M, non è come 140, c'è una timbrica diversa, però in banda laterale in FM, insomma scheggia con la radio, io l'ho avuta, tutta la linea completa addirittura, l'avevo venduta Nino Torre Bravo, comprata nuova dalla Marcucci, ho tenuto a fare un bel po' di anni e poi sono passato alla Kenwood, quindi lo conosco molto molto bene come dice trasmettitore. È bello, molto bello anche esteticamente, però quando va in tilt, a differenza del 140 ancora trovi qualcosa, ma del 757 sia del primo e seconda serie non c'è più niente, sto impattando per trovare una scheda, ho chiamato mio amico in Germania stamattina all'ufficio a Sosso per vedere se può fare qualcosa lui, perché se mi trova questa scheda è nuova questa qua, poi quella che ho io è il GX2, stiamo tirando dei pezzi di ricambio per una parecchia, non c'entra niente con questa roba che stiamo utilizzando adesso, visto che c'hanno di tutto, chi si va l'ordi. Ne hai sentito tu, una ditta che accetta ordine e contrassegno, l'ho fatto, vabbè, e l'altro no, no, il primo ordine non lo possiamo fare, il contrassegno lo facciamo, come si chiama, con bonifico bancario o PayPal o cosa, o carta di credito. Ma dove i discorsi sono, l'ha giudito, ma ti pare, no, no, l'ho fatto, poi se non si fida non ne compri. Ma giudito, che cazzo avete discorsi? Purtroppo mi serve per forza di ordinare da questo. In realtà posso ne sentire, no, io come computer non mi interessa, l'ho già demolito, recuperato tutto e l'ho messo su in mansarda, sto rimettendo Mondetta, adesso alla fine arrivo nel muratore e devo spostare un momento e tutto, vabbè, comunque non è un problema. E basta, disdetto fisco, disdetto tutto, non mi interessa più niente, niente più computer, perché mi ha girato un bel ballo sta cosa. Dovevo stare lì con questi cazzo di problemi, di virus, polizia di Stato e cose. Ma ci ho bucato tutto, l'ho detto anche Tisca, infatti mi ha chiamato Tisca, c'è come mai non siamo stati, siete stati anche troppo ordinati, gentili e troppo. Vi dico tutto perché non mi interessa, anche perché mi porto così poi la linea su, all'ultimo piano, faccio una cosa fatta diversamente, metto Fatwet. A proposito, come funziona questo Fatwet? Fatwet? Uno vale l'altro. Anche io con Tisca di officina mi sono capizzato che hanno fatto le bombe, prima ci hanno fatto un prestaccio all'inizio, i primi anni, adesso cacchio triplicati si sono, infatti adesso vediamo un pochettino, ne facciamo anche quello lì e ritorniamo alle origini. Vabbè, ma tanto io l'avevo fatto prima, poi con il mio approfittato del computer si è rotto e staccato tutto e poi mi faccio portare la linea su, appena tramezza ne finiscono mi faccio portare la linea su e così ci porto tutto su da qua e via, e qua faccio un'altra stanza retro, qualche altra cosa, ci monto tutto e via, così è fatta, non ci penso più, perché avevo mezzo intenzione di lasciarla la linea qua giù, invece poi alla fine la faccio su e basta, tanto se non ce la faccio quest'altro, ma prima che inizi l'inverno sarò già su. Avanti, vabbè. Ma dimmi una cosa, ma tu adesso a che piano sei là? Scusa, volevo dire avanti già, ne hai ripreso tu. Al secondo sono adesso. Ah, dopo ci siamo andati l'ultima volta, prima eri al nono, dove eri prima? Sì, al nono, ma è come adesso mi risalgo su di un momento. Ma quindi il nono ce l'hai ancora all'ultimo piano tu? Certo che sì. Ma chi te ne sei parato là, non ho compreso, ma per problemi di dimensione di appartamento o di percorso? Sì, è più grande questa. Vabbè, tanto sei in due, tua figlia ormai è a conto suo quasi, no? Vabbè, però da vicino ho preso una decisione, che un investimento che ho fatto molto volentieri. Non vuoi, qui c'è la sala radio, cioè c'è la mia stanza, non me l'ho prescato nessuno di là, no? Di là ero un angolino, in mezzo ai piedi e via, quindi ho fatto un business, venduto quella e vabbè, te lo dico in verticale, non lo stare qua a fare salotto di cose mie personali. Comunque ho fatto delle manovre molto interessanti, dove ci ho guadagnato e quindi mi ho preso questa che è più grande adesso, poi ho preso praticamente quella lì su di nuovo, ma già te lo dico in persona. Avanti già. La sala radio in mansarda non è più fatta, non hai deciso di non farla. Lì stavo parlando, devo salire lì, devo salire su, mansarda con un appartamento. Ho visto Massimiliano, trovava un appartamento, 4,10 metri alta, non ce n'è di risseghe, ti devi abbassare, praticamente esce piano giorno a piano notte. Un attico, è là. Esatto, un attico da 4,10 metri di altezza. E qualche stanza è quello lì? Poi viene il salone e due stanze piccoline, però viene piano giorno e piano notte, sopra faccio il cameretto e sotto tutto salone a vista, capito? Con un comunicante con l'altra casa in grado di prima? Sì, sì, sì. Ah, ecco, ecco. C'ho qualche scalacchio, c'ho qualche cosa usa. Buono. Ma allora sicuramente di chi più umana di chi? Se c'è isolazione, isola no. Ma ti sei sobbarcata, ma sobbarcata. Hai capito? Va sobbarcata con la scala in legno a giorno e praticamente sopra fai le due camere da letto e sotto fai tutto il salone con il bagno e vabbè, mi devi vederla, ma ci vediamo già la vista. Cavaga, andava. Roberto, mettemi contas. Di cosa? Sto cercando di fare quest'ordine, se ci riesco, vedo che a far rendere, però non si capisce niente come procedere qua. C'è scritto carrello, devi bigliare, eccetera, eccetera. Carrello 1, metti 1. È un bel complicato questo, adesso sto cercando prima di fare spedizioni, ordini che non quadrino. Adesso me lo sto studiando bene e voglio vedere. È facile allenare. Non è così difficile. Che cosa stai ordinando? Apparecchiature? No, sono pezzi di ricambi, di due piatti giradischi. Ci ho preso. Io ho già fatto, non è che non mi fido perché ho sentito, perché su internet si prende qualcuno, ha preso delle fregature, ho detto grazie a Dio, io non ho mai avuto niente. La prima cosa che sento io è che qualcuno sia stato bruciato da internet. Che te giudizio? Parte la regola di ieri. Anche io e Claudio siamo stati bruciati, 200 io, 300 Claudio, altri 200 maestrale. Ma già, ti dico l'ultima. Ma un altro. Le mande radio. Mi fanno così, capito? Ho ordinato praticamente tramite l'elettricista delle applico, quindi si chiamano, no, bellissime, che vanno praticamente dal muro ad angolo, perché questo è un appartamento un po' particolare, mi chiama salvato eccetera, quindi sono gli accorgimenti che bisogna seguire. E in vetro di Murano, bellissime, come ci vanno trovati qua giù, forse non me li hanno mandati, non te lo dico, mai, mai ne hai visto. Allora io vi devo raccontare una cosa, se trovate questa roba qua non fatevi fregare. Adesso ve lo dico perché tanto so che è una fregatura. Mi hanno mandato dalla Nokia, mi manda il messaggio al telefono. Lei ha vinto praticamente 370.000 euro. È stato estratto da tutti i clienti Nokia, eccetera, eccetera. Io ho il telefono Nokia, ok. Vabbè, le vado a vedere cosa. E il giorno dopo mi scrivono se ho ricevuto il messaggio, così ho risposto per via internet e mi sono ritrovato anche un'email su via internet, oltre che il telefono. Rispondo dicendo che il messaggio è stato ricevuto, eccetera, eccetera. Allora il giorno dopo mi scrivono di mandarmi l'indirizzo esatto, nome, cognome, eccetera, eccetera, perché per farmi recapitare questo pacco. E da lì mi quadravo un po' strano, perché dicevo, cavolo, se avete i soldi me li mettono, mi chiedono l'IBAN e il numero di conto e me lo mettono in conto. Vabbè, siccome sono, diciamo, un periodo che se mi danno soldi mi fa piacere, allora ci ho quasi creduto. Mi hanno mandato di nuovo un'altra email dicendomi di mandare la fotocopia della carta d'identità per verificare nome, cognome, indirizzo, eccetera, eccetera. Gli mando la fotocopia della carta e ricevo un'ulteriore email dicendomi che mi devo mettere in contatto con l'autotrasportatore, il numero di telefono era questo, draga, di mandargli un'email e mandarmi 500 euro per la sicurezza del pacco. Ma datemi là, che altrettanto io. Devo andare a mangiare, mi sta chiamando mia moglie. Gianni, quella roba è a posto, eh? ok, grazie. L'avvento l'attacca bene? Sì, l'ho riparato. Dimmi, è questa qua la radio che sto usando, Benissimo. Adesso ce l'ho attaccata da tutto il giorno, ogni tanto entro, faccio passaggi, ma problemi, sembra che vada bene. Kappa, no, va benissimo. Quindi il microfono, ma che, come ce l'ha? L'ho messo al massimo, processore inserito e 40 rette modulate. Va bene, dai, va bene. Grazie per il momento, dimmi quando posso venire a pigliarmela. Anche domani mattina sto lavorando, ma domani pomeriggio ci sentiamo, se la prendi così te la usi, te la provi e la verifichi. D'accordo, dai, ciao Roberto, ciao Claudio, ci ha sentito poco fa, ciao a tutti quanti, corretti per il momento. Ma fammi ben sentito, fatti sentire più spesso. Ieri di sfuggito ho acceso, ti ho sentito in banda laterale, non so come cosa stavi andando, era spettacolare la modulazione, mi è piaciuta, bellissima. Sui 40, e allora era con questo, stavo uscendo, stavo facendo delle prove. No, una bella modulazione, con questo che sei adesso, no, stavo uscendo una meraviglia, infatti ho detto veramente una bella radio. Con questo stavo facendo delle prove cittine per vedere se andava bene, hai capito? Va bene, dai, ci sentiamo dopo. Ciao Fabio, ben sentito, vai là. Io già di nuovo Fabio, c'è un sito che poi lo faccio mettere. No, raga, anch'io ho ricevuto, lei tu già non è un problema andare con la radio, ma adesso vediamo Gianni. Ma già, c'è qualcuno che dice la dimica qui e là, lasciamo stare come trova Fabio, a me che è un massimo processore inserito e parlaci tranquillamente. È chiaro che la gente si deve abituare perché ha una voce completamente diversa, ma la gente la deve abituare, tu non è che devono importi che radio devi usare o cosa devi fare, quindi la radio va bene, esce benissimo, perciò cosa di una frutta. A chi non piace la modulazione, oggi buoni i buffi. Ok, dai, ciao Fabrizio, ciao Gianni, ciao Roberto, anche io vado a mangiare, che è arrivato mio genero. E ciao anche a Eugenio. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao Claudio, ciao Fabrizio. Ci sentiamo domani, dai. Vado anch'io a becchettare qualcosa, dai. Ci sentiamo dopo, però fatevi sentire, fate come tutte le sere, però non vi mai più. Fabrizio, devi aprire il mic e fai gente. Dai, ti prendo io, mi saluto tutti, perché ho detto, prendo una cosuccia, così mi lavo le mani e me ne vado a mangiare, che mia moglie mi ha già chiamata, dopo la... Ciao, ci sentiamo. Fabri, no, stavo dicendo a Claudio. Claudio, lo sai che c'è il Milan oggi? No, si è già chiuso. Vabbè, che dirti, tu a te quando ti tocca mangiare, fa poco. No, ho già mangiato io, no. Mi sono acceso per vedere chi c'era un attimino, sto facendo una cosa al computer, se riesco a ordinare adesso, però non sono concentrato, per cui non voglio fare cagate. E insomma lo dirò domani mattina, tanto di notte non me ne affrutti nulla. E poi vado a vedermi il Milan. Niente, vabbè, mi hai chiamato. Ho detto che c'è il Milan, tra. Infatti, adesso ce la guardiamo con il mio genere. Non chiede, se volessi qualcosa, scrivo. Anche quando vai a mano lascio tutto acceso qua e si sente la gente modulare. Dai, ci sentiamo dopo, se coincide, altrimenti alle prossime. Ciao Gianni, di nuovo, ciao a tutti. Luca! Dimmi. Ma domani lavorando stai? No, c'è un fuso, domani ho detto che non ci vado. Non ci vado perché oggi mi hanno fatto la testa a cacco, sono una greca dei tedeschi che sono arrivati per mettere a posto delle strumentazioni e ero tutto aggiuntiti tra sentire parlare in tedesco tutte le cose, c'è la testa a fumo, domani me lo sono preso a riposo, tanto ho lavorato anche sabato e domenica scorsa, quindi perché niente volevi? No, passa, tanto domani ho già tutto finito, lavoro consegnato, se alle 11 ci sono, se ti vuoi fare una scappata. Sì, non so, non mi c'è vedere l'anino. Mi ha portato il WhatsApp e poi la barca Giovanni, la cazzazione, mi ha lasciato in ufficio a Sorso. Ma vaffanculo. Vabbè, dai, non ti preoccupare, dai, già troviamo una soluzione in ogni caso. Già glielo ho già preso, ma ho già fatto male che uguale a quello che l'ha fatto, solo quello là è nero, il tuo è bianco. Siamo un po' scornati tutti. la buffonella, non ti preoccupare. Ok, vabbè, Claudia, ci sentiamo, dai, io tengo 5 minuti acceso e poi vado dentro. Vai, già, se ci sei ancora. Rimango altri 5 minuti e poi vado a mangiare anch'io, perché me l'ho già chiamato. Ma chiamasse per l'anticipo. Ok, dai. Comunque ti saluto già da adesso, già, io tengo 2 minuti perché sto finendo questa roba qui. E comunque buona carica e buon tutto, dai, se no ci sentiamo un altro momento. Ciao ciao. Vabbè, ci salutiamo qui allora. Ciao, V2, V2 ci sei.